giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fondi PNRR per il tunnel combinario elettrificato che a Trieste collegherà il Molo Settimo e la stazione di Campo Marzio. Silos di Trieste dopo il secondo blitz, tutto come prima, a curarsi degli stranieri volontari ultraottantenni. Vaiont, la frana del Monte Toc, la più studiata di sempre, focus rischio idrogeologico in un convegno a Udine. A Manzano una donna in moto si è scontrata contro un capriolo, in gravi condizioni è stata eletrasportata a Udine. La tutela penale dell'ambiente marino, convegno sugli ecoreati nell'ambito degli eventi intorno alla Barcolana. 80 anni fa la morte di Norma Cossetto, seviziata dai partigiani jugoslavi, parla la donna che sfidò gli aguzzini. 12:31 sarà dunque un tunnel con un binario elettrificato, il nuovo collegamento tra il Molo Settimo e la stazione di Campo Marzio, lo prevede il bando pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea. Il progetto, che sarà finanziato anche con fondi PNRR, renderà più rapido il passaggio dei treni e contribuirà a far crescere il traffico di container nel porto di Trieste. Si chiama Varco 5 e sarà il collegamento tra il Molo Settimo del porto di Trieste e la stazione di Campo Marzio, un progetto che prevede la realizzazione di una galleria artificiale a binario singolo e l'elettrificazione della linea. Secondo il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, l'importo a base di gara dell'appalto è di 7 milioni di euro, che saranno finanziati anche con fondi PNRR. L'opera sarà pronta e attiva entro la fine del 2026. Si tratta solo di uno degli interventi pensati per il riassetto complessivo della stazione, che comprendono anche il nuovo binario da 750 metri, che potrà ospitare così anche i treni più lunghi d'Europa. Secondo le stime attuali, Campo Marzio continuerà a essere il primo scalo di merci italiano per numero di treni. Il Varco 5, spiega il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino, servirà a rendere più rapide le operazioni di passaggio dal Molo Settimo alla stazione e contribuirà ad aumentare la capacità e la velocità del porto. Noi già trasportiamo il 50% dei container via treno, spiega D'Agostino, e questo rappresenta già un record a livello mondiale. Per quanto riguarda il porto, il collegamento si aggiunge ai lavori per l'area del cosiddetto terminal ungherese, con i dragaggi e il banchinamento, che a breve otterranno i permessi per partire, e a quelli relativi all'area retrostante in zona Noghere. Il giorno dopo la seconda battuta di controlli nel silos di Trieste da parte delle forze dell'ordine, siamo andati a vedere che aria si respira tra i migranti che vi hanno trovato rifugio. Si scambiano un saluto, un sorriso, una parola di conforto. C'è riconoscenza e complicità tra i ragazzi migranti che entrano ed escono dal silos di Trieste, luogo di riparo per chi non è riuscito a trovare un posto nell'accoglienza e chi per primo ha dato loro un aiuto, medicato le ferite, portato un pasto caldo, alcuni vestiti. Sono i volontari di Linea d'Ombra, persone per lo più anziane, persino over 80, che ogni singola notte da anni in Piazza Libertà aiutano i profughi in transito. Non solo giovani uomini, ma anche donne, mamme sole. Gianandrea Franchi. Un fenomeno regolare, diciamo, vale a dire quotidiano, di arrivo di famiglie, soprattutto curde dalla Turchia, anche con bambini, con neonati, che arrivano qui la sera e tendono a prendere i primi treni del mattino, poco dopo le 4, per andare in Germania. Ed è straziante dover venire via lasciando qui queste famiglie sulle misere aiuole della piazza con questi bambini piccolissimi. Noi abbiamo cercato anche con delle parrocchie di ospitarli, però non ci siamo riusciti. Anita, infermiera di 80 anni, si ricorda di aver promesso degli occhiali da vista ad un pakistano, corre in auto a prenderli e ci racconta perché ha deciso di diventare volontaria. Anita Godelli. Dicevo sempre sì vado, rimando, oggi faccio questo e domani vado, oggi faccio questo, domani vado. E poi alla fine, quando ho visto il servizio di Riccardo Iacona per televisione, ho detto devo andare. E ci sono andata, mi sono presentata, ho detto io sono qua, se mi volete, e mi hanno voluto. Ogni sera, dalle 18 a mezzanotte e oltre, da 4 anni i volontari sono in Piazza Libertà. Come risponde la città di Trieste? La città è indifferente, in alcuni casi ostile, purtroppo. Da 4 anni noi siamo qui tutti i giorni e lo constatiamo di persona. 60 anni fa il Vaiont, la frana nel bacino idroelettrico e l'acqua che tracimò, spazzando via per sempre con un'onda di fango, paesi e persone. Di rischio idrogeologico, di prevedibilità o meno di eventi franosi si sta discutendo in un convegno a Udine. Le Nazioni Unite hanno descritto la tragedia del Vajont come il primo di 10 eventi disastrosi causati dalla scarsa comprensione delle scienze della Terra e del fallimento di ingegneri e geologi. Quel 9 ottobre del 63, oltre 270 milioni di metri cubi di roccia scivolarono a 90 km orari e in meno di 30 secondi raggiunsero il lago artificiale. L'impatto generò un'onda di 50 milioni di metri cubi che si divise in più direzioni. Diverse le avvisaglie, ignorate nei mesi e negli anni precedenti. 60 anni dopo, quel distacco dal Monte Toc rimane la frana più studiata al mondo. Roland Keitner, dell'Università di Vienna, Dipartimento di Scienze Naturali della Vita. Si tratta sicuramente di una delle peggiori tragedie europee dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti. Dave Pitley, professore di geografia all'Università di Hull. Ancora oggi non c'è consenso scientifico sull'esatto meccanismo. È difficile capire perché la frana è collassata proprio in quel momento e come abbia fatto a muoversi così velocemente. Studiare la meccanica di frane come quella del Vajont aiuta a cercare di prevenire simili catastrofi, confermano al Centro Internazionale di Scienze Meccaniche di Udine, che ospita un corso internazionale sul tema. La pioggia e l'umidità del suolo influiscono sull'avvio delle colate detritiche. Capire poi le dinamiche dei flussi ci aiuta, infine, a creare dei modelli predittivi. Anne Mangenet, dell'Istituto di Fisica del Globo di Parigi. Rispetto al passato, oggi possiamo contare sulla possibilità di registrare movimenti sismici anche piccolissimi. Inoltre disponiamo di tecniche di misurazioni con laser e di una migliore comprensione della correlazione tra piogge e gli eventi scatenanti. La cronaca: si scontra con un capriolo che attraversa la strada all'improvviso e cade dalla moto. È accaduto ieri sera a Manzano. La donna, una quarantenne, è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata all'ospedale di Udine in elicottero inviato dalla Sores insieme a un'ambulanza da Cormons. Ancora cronaca, un incidente sul lavoro con conseguenze per fortuna non gravi è avvenuto a San Vito al Tagliamento, dove un operaio della zona industriale di Ponteroso è stato colpito agli arti inferiori da un elemento di metallo di circa 200 kg di peso. L'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale locale in codice verde. Disagi alla circolazione dei treni questa mattina a partire dalle 6 fino alle 8 sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia per un guasto agli impianti tra le stazioni di Trieste e Monfalcone. Un convoglio è stato anche cancellato a provocare ritardi, fa sapere Trenitalia, e il malfunzionamento di un passaggio a livello a Bivio da Urisina. Tra i convogli regionali che hanno registrato rallentamenti fino a 20 minuti e 4 i regionali limitati. È in corso fino a sabato a Pordenone la terza edizione di Pordenone Trading Places, educazione finanziaria in comune, evento organizzato con l'Università di Udine. Ospite d'eccezione della rassegna il prefetto della Segreteria per l'Economia della Città del Vaticano, Maximino Caballero Iedo. Ha preso il via stamani il Festival dell'Educazione Finanziaria organizzato da Università di Udine e Comune di Pordenone. Obiettivo: contribuire a promuovere una cultura finanziaria diffusa. Francesco Raggiotto è responsabile organizzativo del Festival. Viene Trading Places rappresenta l'impegno dell'Università di Udine a contribuire all'obiettivo di diffondere la cultura, l'educazione finanziaria su tutto il territorio. È un obiettivo strategico a livello nazionale ed è molto importante, perché appunto l'Italia, ahimè, è molto indietro dal punto di vista dell'educazione finanziaria. Primo incontro al ridotto del Teatro Verdi dedicato alle opportunità del terzo settore. Paolo Rambaldini è presidente della BCC Pordenonese Monsile, membro dell'organo di indirizzo della fondazione omonima che ha organizzato l'incontro. Questo convegno sul terzo settore è fatto proprio per riuscire a portare un messaggio complessivo sul livello di assistenza, sul livello di efficacia e sul livello di finanziamento che debbano avere queste iniziative per avere successo, cosa a cui teniamo molto perché è un po' il nostro messaggio statutario di una banca di credito cooperativo: sostenere il volontariato e sostenere il terzo settore per far crescere il territorio. Ma sono tanti i temi che saranno affrontati fino al 7 ottobre, dall'inflazione ai tassi di interesse alla sicurezza bancaria, destinati alla più ampia platea possibile, dalle scuole ai professionisti al pubblico generalista. Tra gli altri, sabato mattina, le botteghe del sapere che portano l'educazione finanziaria nei locali del centro città. Stefano Miani è responsabile scientifico del festival. L'evento clou sarà venerdì, quando avremo ospite il prefetto per l'economia della Santa Sede, che verrà a illustrare la ristrutturazione degli assetti finanziari, delle istituzioni finanziarie del Vaticano. Lo faremo per le scuole, per gli studenti dell'università e la sera per la popolazione. Voltiamo pagina. In occasione dell'80° anniversario della morte di Norma Cossetto, istriana uccisa dai partigiani jugoslavi, si terrà una cerimonia commemorativa a Trieste, alla stele a lei dedicata nell'omonima via, alle 18. La testimonianza di chi la conosceva e che a soli 15 anni decise di sfidare gli aguzzini che aggredirono Norma. Più che una sartoria, è una galleria di ricordi e riconoscimenti quella di Erminia Dionis Bernobi, sarta a Trieste, 92 anni compiuti e testimone lucidissima della tragedia istriana. Lei, che appena quindicenne, mentre lavorava in un laboratorio di sartoria, fu costretta a lasciare il suo paese, Santa Domenica, per aver reagito senza paura alle parole di uno degli aguzzini di Norma Cossetto, sua amica che 3 anni prima venne torturata, seviziata e gettata in una foiba. Ero lì che tagliavo e è entrato questo tizio e lui iniziò a gridare: tutti Cossetto in foiba, tutti in foiba, ne abbiamo ancora tanti da buttare in foiba. A me è incominciato a battere il cuore, non le dico in che maniera, perché mia sorella aveva sposato il primo cugino di Norma. Ho detto: mamma mia, adesso buttano mia sorella, mio cognato, quel bambino. Ho detto: non è possibile. Ma sono uscita, guardi, inviperita proprio, arrabbiata. L'ho preso per il petto e l'ho gridato: porco vigliacco, e sono scappata fuori, comunque via a casa di corsa. Era il 24 agosto del 1946, fu il sarto sudatore di lavoro a convincere la mamma a farla fuggire nel cuore della notte per paura che quell'uomo potesse farle del male. Aiutata da una donna in compagnia di un altro esule di appena 8 anni, camminarono per 2 giorni no stop. Avevamo i piedi insanguinati, ci racconta. Io vedo tutto il percorso, sa, non l'ho dimenticato. La madre le fece promettere di non parlarne più, di dimenticare questa storia per sempre. Taci, sempre non parlare. Diventano muta, mamma, ho detto: cosa vuoi che faccia? Questo silenzio è durato più di 50 anni. Arrivata a Trieste rimase apolide per anni Erminia, il periodo più brutto della mia vita. Sposata poi a Livio Bernobi, cugino di Norma Cossetto, ha lavorato come sarta tutta la vita, tantissimi riconoscimenti. Spesso il tricolore lo ha fatto indossare alle sue modelle, ha partecipato a sfilate in mezzo mondo, insegnato moda agli studenti. Instancabili le sue mani lavorano tuttora. A 90 anni ho detto basta, non vengo più a scuola, basta, chiudo la partita. Invece cosa vuole? La tengo aperta, perché dopo tutto, ho detto, forse è meglio pagare la partita IVA che la badante. Sono le 12.43, passiamo al meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 21 gradi, il mare è poco mosso con temperatura di 23 gradi, a Gorizia 22, a Udine e Pordenone 21 gradi, in Aramontana Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, Tarvisio 14 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 13 gradi e mezzo, a Piancavallo e Sappada 14, in quota sul Monte Zoncolan 11 gradi e Monte Lussari 10, sulla costa Grado 22 e a Lignano 21 gradi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 22 gradi. Le previsioni dell'ARPA: dal pomeriggio probabilmente cielo da poco nuvoloso a variabile sulla costa e sulle zone orientali, bora in calo, probabili venti a regime di brezza. Domani al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata sereno poco nuvoloso sulla costa, soffia Raborino, specie al mattino. Mancano 3 giorni alla regata triestina della Barcolana, intanto si moltiplicano le iniziative e la grande kermesse della vela si presta anche a ragionamenti non strettamente nautici. Oggi per esempio la polizia ha incontrato insegnanti e studenti all'evento Nel mare della sicurezza per parlare anche di legalità e lotta contro le discriminazioni. La Barcolana non è solo vele, vento e competizione, non è neanche soltanto mare. Al Sea Summit, al tradizionale evento con le scuole, si è deciso di parlare di sicurezza cibernetica, stradale, ma anche di violenza di genere. Una scelta particolarmente apprezzata dai centinaia di alunni delle scuole superiori, perché la percezione, soprattutto delle giovani, anche in una città senza particolari criticità, è cambiata dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto anche minorenni. Sicuramente per me, essendo una ragazza, provo ancora un po' di timore nell'uscire la sera da sola, perché comunque la notte non si sa mai di cosa si va incontro. Una volta che vedi che davvero nella tua città possa succedere una cosa del genere, ti viene quell'ansia. Comunque quando ti ritrovi in un ipotetico scenario di rischio, comunque in cui ci sono persone poco attendibili, poco raccomandabili, ti senti... Cioè, ad esempio, io in primis cerco sempre, non so, mandare un messaggio a qualcuno per sapere dove sono, se vedo che, non so, c'è qualcuno che mi sta seguendo. Fare attenzione, insomma, perché l'impegno crescente delle forze dell'ordine non sempre può bastare, specie per quello che accade in rete. Pietro Stuni, questore di Trieste. C'è stato un episodio di violenza di due ragazzi che si sono conosciuti in rete e poi si sono incontrati. Quindi oggi questo incontro con i ragazzi serve a dire: attenzione, la rete è utile, però le amicizie in rete vanno valutate con particolare attenzione, perché poi ci si può vedere e non sappiamo chi abbiamo di fronte. L'educazione è la base di tutto, che deve riguardare principalmente i giovani maschi, agendo sulla cultura del consenso esplicito, ma non solo. Oltre ai maschi, secondo me bisognerebbe educare la femmina, nel senso che ad avere una certa sicurezza di se stessa e di come agire in certe situazioni, perché alla fine, cioè, fenomeni del genere ci saranno sempre comunque, nonostante tutta la consapevolezza che abbiamo su ciò, e quindi di base è cercare di formare le persone vittime. Sullo sfondo della Barcolana, il comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, Luciano Del Prete, ha presentato il programma di iniziative per i 100 anni dalla fondazione. Venerdì giorno 6 alle ore 18 ci sarà un concerto celebrativo per i nostri 100 anni qui nel piazzale della Capitaneria, un concerto organizzato con gli artisti del Conservatorio Tartini. Ci sarà una ammaina bandiera solenne con la partecipazione della fanfara dipartimentale della Marina Militare che verrà appositamente dalla Spezia, e poi ci sarà questo grande concerto al quale parteciperanno le massime autorità civili e militari della regione. Cosa significa per il territorio, per l'importanza che ha il Golfo di Trieste nel mare Adriatico? Sicuramente sono 100 anni di connubio con le attività marittime e portuali. La Capitaneria svolge dei ruoli importanti, dei compiti importanti nell'ambito del contesto portuale e marittimo. Tutto ciò che avviene, tutto ciò che si muove nel nostro mare, nel nostro porto, per la sicurezza è seguito dalla Capitaneria di Porto. Tutte le navi che arrivano a banchina sono seguite dalla Capitaneria di Porto come se fosse una vera e propria pista di atterraggio. E tutto ciò che è sicurezza nell'ambito portuale, nell'ambito del mare, è costantemente H24 seguito dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera. Un modo anche per celebrare, per ringraziare tutti gli uomini della Guardia Costiera che con i loro mezzi ogni giorno garantiscono questa sicurezza. Sì, è il centenario della Capitaneria di Porto, ma io volevo estendere il ringraziamento a tutti gli uomini della regione Friuli Venezia Giulia, che sono circa 260, che anche quest'estate non hanno fatto mancare il supporto operativo per far sì che l'estate fosse sicura. Si intitola La tutela penale dell'ambiente marino, attualità e prospettive tra ratio legis e statistiche sugli ecoreati. È il convegno organizzato dalla sezione triestina dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati nella cornice di Barcolana 55, a cui parteciperà il procuratore della Repubblica Antonio De Nicolo e il presidente di Barcolana e professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Genova, Mitja Jaluz. L'iniziativa si terrà a Trieste, a Palazzo Gopcevic, dalle 15, tra i relatori Alessandro Giadrossi, avvocato al Foro di Trieste, consigliere nazionale per l'associazione ambientalista WWF Italia, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. Il tema è quello dei reati contro l'ambiente, in particolare all'ambiente marino. Quello che si vuole cercare di sottolineare è come siamo ancora a una situazione tutta in evoluzione. Non abbiamo ancora nel nostro ordinamento dei delitti ambientali facilmente applicabili a quelle che sono i reati che si commettono danneggiando l'ambiente marino, l'ecosistema marino, e faremo alcuni esempi. I casi più noti negli ultimi anni sono quelli riguardanti in particolare la pesca del corallo e il prelievo dei datteri di mare, su cui ci sono state delle sentenze importanti da parte della magistratura, in particolare in Campania. Quindi partiremo da esempi concreti. Uno degli aspetti che ci terremo a dire, e soprattutto che ci terrò a dire, è quello dell'importanza della vigilanza e del controllo. Sentiamo spesso parlare sui giornali di aumentare le pene. Non è un problema di aumentare le pene, il problema è acciuffare quelli che sono i responsabili. E su questo l'investimento nella vigilanza e nel controllo è ancora assolutamente scarso. Quindi, malgrado lo sforzo che alcune volte viene fatto dalla magistratura per evidenziare delle situazioni, ma siamo sempre a situazioni sporadiche. Il controllo in mare è un controllo sempre molto difficile, in particolare sulla pesca, tant'è che non è solo l'elemento repressivo quello che in particolare WWF sottolinea, si va sempre di più a una collaborazione con in particolare le nuove generazioni di pescatori, perché ci si rende conto che ci deve essere uno sforzo comune. Noi ci teniamo a tutelare l'ambiente, ma anche a chi oggi si ritrova un mare sempre più privo di pesce e privo di determinate specie. Lo sport, il basket, vittoria sofferta per la Pallacanestro Trieste, che nella partita del ritorno della squadra in A2 ha avuto la meglio contro Orzi Nuovi per 80-75. I biancorossi hanno faticato a trovarsi in campo, chiudendo il primo quarto sul 14 pari, a fronte però di un brutto gioco e non brillando nemmeno nei due quarti centrali, anche per una difesa spesso approssimativa che ha portato la squadra sotto anche di 10 punti, decisivi i minuti finali grazie anche alla difesa di Ruzier. Sentiamo il commento raccolto a fine partita dalla guardia Ariel Fioi. Abbiamo fatto fatica un po' all'inizio, anche a metà partita, poi ci siamo riusciti a sbloccarci. Tanto tempo che non avevamo una partita ufficiale, penso che sia abbia contato anche questo. Niente, siamo contenti però che alla fine siamo riusciti a indirizzarla, no? nel verso giusto. Era importantissimo iniziare con una vittoria, l'abbiamo fatto e penso da domani già inizieremo a cercare di correggere gli errori che abbiamo fatto. Passiamo agli spettacoli. Sarà il concerto in programma il 14 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a chiudere il cartellone autunnale di Suns Europe, Festival delle Arti delle Lingue Minorizzate d'Europa, che vedrà esibirsi sul palco artisti e gruppi musicali selezionati per questa nona edizione, provenienti da Catalogna, Paesi Baschi, Isole Faroe, Galles, Bassa Sassonia e Friuli. Il calendario degli appuntamenti, che da venerdì prossimo al 28 ottobre chiuderanno una programmazione multiforme che si è snodata lungo il 2023 sin da giugno, è stato illustrato oggi a Udine dal direttore artistico Leo Virgili. Suns Europe è organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, in collaborazione con la Regione e Arlef. Ancora alcuni appuntamenti della giornata. Secondo appuntamento della 16ª edizione del ciclo di incontri Affascinati dal Cervello, promosso da IRS, Istituto Regionale di Studi Europei, alle 17:30 all'auditorium della Casa dello Studente Antonio Zanussi di Pordenone. Ci si confronterà su neuroscienze e tribunali, gli errori nella mente criminale, in dialogo con lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Totaro, specializzato in psicopatologia e neuropsicologia forense, giudice onorario minorile del Tribunale dei Minorenni di Venezia. Per il ciclo giovedì, prima di tutto alle 18 all'auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli, si parlerà di cultura, turismo e mecenatismo, la bellezza come fattore di sviluppo del territorio. Interverranno Anna Del Bianco, direttore ERPAC, Roberto Corciulo, presidente Fondazione Aquileia, e Don Alessio Geretti, curatore delle mostre del Comitato San Floriano di Leggio. Prima giornata per la quarta edizione del festival itinerante Sguardi sui territori, dedicato al rapporto tra antropologia visuale ed ecomusei. Oggi in locandina una retrospettiva dei documentari di interesse etnografico di Libero Bizzarri a Udine, al Visionario, alle 15. Il documentario intitolato A cosa servono i papà? Storie di gravidanze e nascite da uomo a uomo, che è dedicato ai molti modi diversi in cui si può diventare padri, sarà proiettato a Trieste al bar e libreria Nulp in via Madonna del Mare alle 18. The Jungle, docufilm sulla popolazione migrante del territorio goriziano, sbarca negli Stati Uniti, inaugurerà il ciclo Migrant Stories in Italian Cinema. Selezione di proposte cinematografiche sul tema dell'accoglienza a Chicago all'Istituto di Cultura. Alle 17 alla Biblioteca Comunale di Remanzacco è in programma la presentazione del libro Quando le montagne si colorarono di rosso. In Accademia Città di Udine, in via Anton Lazzaro Moro, un incontro sul tema la salute, cosa intendiamo veramente quando ne parliamo, con la dottoressa Laura Passoni alle 17. Questa edizione del giornale radio è andata in onda senza le firme per uno sciopero indetto dal sindacato dei giornalisti RAI, Usigrai. Questa edizione del radiogiornale è andata in onda senza firme. Le giornaliste e i giornalisti della TGR contestano l'inopportunità di alcune recenti nomine decise dal direttore. In questi giorni è stato promosso caporedattore di una redazione regionale un giornalista che fino a poche settimane prima era capo ufficio stampa della giunta regionale, un fatto senza precedenti. Una scelta che mette a rischio credibilità, autorevolezza, autonomia e indipendenza dell'informazione della RAI dall'ingerenza della politica e dei partiti. Serve un netto cambio di comportamento da parte della direzione della TGR che, lo ricordiamo, ha già ricevuto ben due volte il voto di sfiducia da parte delle redazioni regionali. La direzione di testata precisa che la nomina è stata effettuata sulla base di una procedura selettiva trasparente che risponde ai criteri e alle regole contrattuali, rispetto alla quale non è stato rilevato alcun profilo di incompatibilità o di conflitto di interessi. Come sempre, l'informazione regionale sarà improntata al massimo rispetto dei principi di autonomia, pluralità, imparzialità ed autorevolezza che connotano il servizio pubblico radio-televisivo. In regia Giampaolo Zucchi e Carlo Morello, in segreteria ha collaborato Daniela Sossi. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.